Marco. Punto e a capo. Una settimana di attualità. Noi vi diciamo che non abbiamo nei vostri confronti nessun complesso di inferiorità e quindi ci batteremo a fondo contro di voi. Parlateci. Onorevoli colleghi, dopo 3 settimane di intenso dibattito, la maggioranza riesce ad approvare alla Camera il testo sul processo breve e Silvio Berlusconi rinsalda la sua maggioranza. Buongiorno da Cristina Carpinelli e partiamo dunque da qui, in questo nuovo appuntamento di Punto a Capo, per raccontarvi i fatti di una settimana, come vedremo, ricca di notizie. Passa dunque a Montecitorio il testo sul processo breve con 314 voti a favore, 296 contrari su 610 votanti. È mercoledì 13 aprile. Viene contestato in particolare l'articolo 3 del testo approvato, modificato da un emendamento del relatore Paniz che riduce i tempi della prescrizione per gli incensurati, passando da un quarto a un sesto della pena. Si applica ai processi che non sono ancora giunti a sentenza di primo grado, non riguarda i reati di grave allarme sociale, terrorismo e mafia, ad esempio. Molte, come dicevamo, le contestazioni dentro ma anche fuori da Montecitorio. Non abbiamo più i nostri cari, lasciateci almeno la giustizia. Una richiesta più che una protesta, quella di ieri dei familiari dell'incidente ferroviario di Viareggio, del terremoto dell'Aquila, dell'incendio del traghetto Moby Prince. Un sit-in di grande dignità e contegno per chiedere una cosa sola, che si accertino le responsabilità. Io ho perso mio figlio Federico, che aveva 32 anni, insieme alla moglie Elena. Non sono morti perché erano passeggeri del treno, loro sono morti nella sicurezza della loro casa. L'unica cosa che ci rimane è la giustizia da dare a loro, che ce la stanno chiedendo. Indignati e preoccupati i genitori degli studenti che persero la vita all'Aquila. Chiediamo che non venga messo tutto a tacere, come si fa, come è consuetudine fare in Italia. Le cose scomode devono essere taciute e le verità purtroppo non vengono mai a galla. Decisamente più rumoroso è il cosiddetto popolo viola, cartelli e slogan contro la prescrizione, vergogne e buffoni rivolti alla Russia e Santanchè. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Molti processi a rischio. Secondo l'Associazione Nazionale Magistrati, Paola Anani ha intervistato il presidente Luca Palamara. Noi diciamo che anche a voler calcolare lo 0,02% dei procedimenti pendenti, che sono circa 1,5 milioni, avremmo una stima di almeno 15.000 processi che verrebbero cancellati da questa norma. Norma che affossa ancora di più lo stato di difficoltà nel quale si trova la giustizia e che rischia di garantire impunità a chi commette un reato e negare giustizia alle vittime dei reati stessi. Il tema della giustizia, visto da un'altra angolazione, aveva tenuto banco anche in apertura di settimana quando, come ricorderete, il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, si è presentato all'udienza nel processo Mediaset. Ecco come lo abbiamo raccontato noi nei nostri giornali radio. Presidente, se dovesse arrivare una condanna per il processo... Ma nemmeno Berlusconi, ma che condanna, dai? Sabato sera si ride in televisione. Arriva, saluta, scherza. Fosse per lui, racconta, renderebbe anche dichiarazioni ai giudici e invece parla con i cronisti dentro il tribunale, con i fan fuori, di giustizia da riformare, di intercettazioni e di rubi. Nel mezzo, per 3 ore, l'imputato Silvio Berlusconi assiste all'udienza del processo Mediaset. È una magistratura che non lavora per il paese ma contro... Il processo rubi la preoccupa. Intanto è fondato e senza senso. Io ho dato l'incarico di darle questi soldi per non costringerla alla prostituzione. Come spiega quelle conversazioni in cui sembra che si debba decidere la linea degli interrogatori difensivi? Intercettazioni non fanno fede, sono assolutamente manipolabili. In prima fila il premier ascolta 3 teste, poi il battibecco tra la difesa e il PM che, vista l'avanzata della prescrizione, tuona contro il gigantismo di liste troppo lunghe di testimoni. Lui, Fabio De Pasquale, è il PM cattivo, gli dirà poi Berlusconi, incassando l'invito a contenersi. Ma fuori dal palazzo, anzi, gli affondi diventano comizi, anche se il palco mobile viene fatto smontare. Sono soltanto processi fatti per buttare fango sull'avversario politico. La magistratura italiana lavora per il paese, ricorda il procuratore di Milano, Bruti Liberati, mentre i vertici del palazzo si lamentano per le manifestazioni che intralciano, dicono, l'attività normale. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Punto e a capo. Qui a Gaza ovviamente siamo molto, tutti molto scioccati, continuano a susseguirsi manifestazioni di cordoglio e di rabbia lungo tutta la striscia, in particolare dinanzi alle Nazioni Unite per chiedere un intervento forte della comunità internazionale. E voglio sottolineare che la missione non è finita, ci sono ancora due barche della flottiglia in questo momento nel Mediterraneo che stanno cercando di raggiungere Gaza. Questa che avete sentito è la voce del cooperante italiano Vittorio Arrigoni, intervistato nel 2008 da Alessandro Milan dopo il blitz israeliano contro la Freedom Flottiglia che provocò la morte di 9 attivisti. Il corpo di Arrigoni è stato trovato a Gaza poco prima delle 2 di notte tra giovedì e venerdì. Ve lo abbiamo raccontato così nel nostro giornale radio. Buongiorno dalla redazione, da Adriana Fracchia, soffocato poche ore prima di un blitz di Hamas che voleva liberarlo. È morto così l'attivista italiano Vittorio Arrigoni. Gli aggiornamenti in diretta con Paolo Piacenza, buongiorno. Buongiorno, anche la Farnesina ha confermato la morte di Arrigoni, il cui corpo è stato da poco riconosciuto presso l'abitorio dello Chief Hospital a Gaza City. Un funzionario del Consolato Generale Italiano di Gerusalemme si trova già nell'obitorio di Gaza City. L'attivista italiano rapito ieri da un comando di estremisti salafiti vicino ad Al-Qaeda è stato ucciso senza neanche attendere lo scadere dell'ultimatum fissato alle 16 di oggi per ottenere la liberazione di alcuni detenuti appartenenti all'organizzazione che aveva rapito Arrigoni. Il suo corpo è stato ritrovato poco dopo l'1:50 in una casa della città di Gaza dalle forze di sicurezza di Hamas. Secondo la versione di Abu Sain, portavoce del governo di Hamas, Arrigoni sarebbe stato soffocato, strangolato prima del blitz. Le ricerche erano scattate nel pomeriggio di ieri dopo la diffusione di un video su YouTube in cui Arrigoni appariva bendato col volto insanguinato mentre una scritta lo accusava di propagare i vizi dell'Occidente fra i palestinesi, imputava all'Italia di combattere contro i paesi musulmani e ingiungeva ad Hamas di liberare i salafiti detenuti. Secondo il portavoce di Hamas, l'arresto di un primo militante salafita ha condotto i miliziani di Hamas fino al covo, un appartamento di rione Karame, espugnato dopo una breve sparatoria. Per Arrigoni però ormai non c'era più nulla da fare. Va detto che sulle cause esatte e sulle modalità del decesso avvenuto in modo violento per mano dei rapitori, la Farnesina mantiene uno stretto riserbo. Oggi anche in Israele radio e TV danno grande evidenza all'uccisione di Arrigoni. La radio militare israeliana ha sostenuto che l'uccisione di Arrigoni evidenzia che a Gaza cresce la guerra interna fra Hamas e gruppi integralisti salafiti che si ispirano ad Al-Qaeda. Tuttavia, secondo Ribi Rantisi, un esponente di Hamas intervistato proprio dalla radio militare israeliana, dietro all'omicidio c'è anche l'intento di scoraggiare nuove flottiglie di attivisti stranieri verso Gaza. Ed è tutto. All'inizio di questa settimana l'Europa si è confrontata, ma si è anche e soprattutto scontrata sul tema dell'immigrazione e un'immigrazione che arriva dal Nord Africa e che in qualche modo ha messo in discussione il concetto stesso di politica europea. E questa è probabilmente, come vedremo, la notizia più importante. Ma per capire in quale scenario ci stiamo muovendo, partiamo dalla Libia. Lunedì 11 aprile l'Unione Africana, per voce del presidente del Sudafrica, Zuma, annuncia di aver dato via a un piano per la pace in Libia. Ma the leader and his delegation que la délégation du frère guide de la révolution have accepted the road map as presented by the Gheddafi ha accettato la roadmap presentata da noi, dice Zuma. Dobbiamo dare una chance a un cessate il fuoco. E questa dunque la linea data dall'Unione Africana, una roadmap che preveda l'immediato cessate il fuoco. La via che l'Unione Africana dà a Gheddafi è soprattutto per uscire dalla guerra all'inizio di questa settimana. La storia, come vedremo poi, prenderà il suo corso, ma la notizia con la quale siamo partiti racconta di un successo della diplomazia africana. Un'Africa che, come dirà Giulio Sapelli nel Corriere della Sera di lunedì, porta a casa questo successo. Chi esce con le ossa rotte da questa storia invece è l'Europa, che perde la chance di mostrarsi politicamente compatta nel risolvere i problemi. E quanto emerge dal Consiglio dei Ministri dell'Interno europei di Bruxelles. L'Europa ha lasciato solo l'Italia ad affrontare l'emergenza immigrazione. Lo spiega il ministro dell'Interno Maroni al termine del vertice di Lussemburgo. Analisi questa condivisa dal presidente del Consiglio Berlusconi in una telefonata con lo stesso responsabile del Viminale. Ci aspettavamo un comportamento diverso dai governi degli Stati membri, dice Maroni. Che aggiunge: mi chiedo se davvero abbia un senso continuare in questa posizione, a far parte parte dell'Unione Europea. L'Europa resti con il suo egoismo, noi troveremo altre soluzioni, dice il ministro degli esteri Frattini. Ora, attacca il ministro Calderoli, serve un blocco navale a difesa delle nostre acque e dei nostri confini. Critica l'opposizione, così Bersani, Partito Democratico. Il risultato è questo, propaganda su propaganda, soluzioni zero. Adesso sento che la destra vuol portarci fuori dall'Unione Europea, mi pare di capire. Dove vuol portarci? L'Unione Africana? L'Italia paga le posizioni della Lega, commenta Fini. Dal Presidente della Repubblica Napolitano il monito ad abbassare i toni. Non scherziamo sull'Europa, dice il Capo dello Stato, no a dispetti, ritorsioni o addirittura separazioni. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. L'Italia si scopre isolata in Europa. L'atteso vertice dei ministri dell'interno in Lussemburgo si risolve in una Caporetto diplomatica per Roma che finisce con l'avere a proprio fianco solo Malta, per il resto è gelo. Wir können nicht akzeptieren, dass über Italien... Ad aprire le danze il ministro dell'interno tedesco Hans-Peter Friedrich, che al suo arrivo detta la linea durissima. Non possiamo accettare che molti migranti economici arrivino in Europa attraverso l'Italia. Ci aspettiamo che Roma faccia i passi necessari. È qui che si gioca la linea di discrimine tra Italia e Germania. Berlino considera gli immigrati non come profughi, ma migranti economici. Ne vede un fenomeno di immigrazione di massa. Anzi, invita Roma ad accelerare con i rimpatri. Vicina alle posizioni tedesche la Francia, che annuncia l'invio al confine di unità antisommossa per respingere in Italia i migranti sprovvisti di adeguati mezzi di sostentamento, eppure l'Austria sta pensando di sigillare le frontiere. L'Italia paga a caro prezzo la mossa unilaterale con cui ha rilasciato permessi provvisori, evidentemente mai concordata con i partner. Inevitabile la sconfitta. La proposta di Roma di attivare la direttiva europea per la protezione temporanea dei rifugiati si frantuma contro un muro di no. L'unica visibile ancora di salvezza per l'Italia arriva nella telefonata serale tra il presidente della Commissione Giuseppe Barroso e il premier Silvio Berlusconi. Barroso promette un approccio europeo all'emergenza immigrazione, ma soprattutto assicura l'appoggio alla linea italiana nella visita che compirà oggi a Tunisi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bastano dunque 22.000 profughi indesiderati a rovinare nel giro di 48 ore il lavoro di decenni di costruzione europea? Si chiede Gian Enrico Rusconi dalla prima pagina della Stampa, martedì. E se lo chiede anche Alessandro Milan in Bianco e Nero. E ospite in studio con lui c'è l'europarlamentare Speroni. Sentiamo. Vorrei partire da Speroni. Speroni, vuole per favore, se lo ritiene, dare una condanna delle parole del viceministro Castelli della Lega, oppure anche lei crede, insomma, che questa frase sull'uso forse delle armi, per ora no, ma chissà, è una frase che ci può stare? Ma scusate, in Libia non si stanno usando le armi. E che c'entra la Libia? No, allora, le armi o si possono usare o non si possono usare. Bisogna vedere se si usano bene o si usano male. Noi siamo invasi. C'è gente che viene in Italia senza permesso, violando tutte le regole. Beh, a questo punto bisogna usare tutti i mezzi per respingerli. Anche le armi? Eventualmente anche le armi, se è l'ultima ragione. Ripeto, proprio l'Europa sta usando le armi nello stesso ambiente, in Libia. E non vedo allora perché le armi per uno scopo si possono usare e per quell'altro no. Siamo di fronte a un'invasione. Cioè, a un certo punto, secondo me, Hitler ha sbagliato tutto. Se fosse vissuto ai giorni nostri, avrebbe mandato in giro dei tedeschi coi barconi a invadere il mondo e nessuno avrebbe potuto fermarli perché, le ragioni umanitarie, eccetera, eccetera. Allora, noi in Libano stiamo usando le armi. In Libia. Noi non stiamo usando le armi in Afghanistan. E perché non dobbiamo usarle per difendere i nostri confini? Ma, lì c'è una guerra, si parla continuamente, 150 anni di unità d'Italia, la patria, eccetera. Qui si tratta di difendere l'unità, di difendere i confini, i sacri confini della patria, dice, come qualcuno. Quindi lei dice, dice, eventualmente si possono anche utilizzare le armi. Cioè, che fare? Sparare alle navi? O mi faccia capire. Fare un blocco navale. Blocco navale. Non vuol dire solo armi da sparo. Io parlo, ad esempio, della Marina Militare. Cosa abbiamo a fare la Marina Militare? Se la Marina Militare non è capace di fermare un'invasione. Bisogna prenderli e riportarli da dove sono venuti. Queste dunque le storie che vi abbiamo raccontato e anche alcune iniziative ovviamente molto polemiche, quella soprattutto di Speroni per risolvere il problema immigrazioni. Si diceva bastano 22.000 profughi a rovinare nel giro di 48 ore il lavoro di decenni di costruzione europea, e ci si domanda, anche la comunità internazionale se lo chiede, quanto egoismo c'è dietro questa presa di posizione rispetto al tema dell'immigrazione. E così su questo interrogativo andiamo avanti. Ovviamente mentre vi parliamo continuano gli sbarchi, sono continuati nel corso di questi giorni e continua anche la guerra in Libia, perché nonostante l'intercessione dell'Unione Africana e il successo portato a casa, come vi abbiamo raccontato, dal presidente del Sudafrica Zuma, la guerra in Libia continua e le urgenze sono davvero molte. Noi abbiamo sentito nel corso della settimana Christian Cardot, che è il portavoce del Comitato Internazionale della Croce Rossa ed è di fatto una delle poche persone che è riuscita ad entrare a Misurata. Misurata è la città libica praticamente sotto assedio da oltre un mese e mezzo ed è il fronte di guerra tra gli insorti e le forze governative libiche. A Misurata la situazione è gravissima, come ci racconta Christian Cardot. Sentiamo. In Misurata, where we were able to go to visit two hospitals, the hospital of Al-Hikma. Now the main concern for us it's all the foreign nationals. Ecco, come sentite la situazione, la fotografia che ci ha dato e ci sta dando Christian Cardot è che a Misurata ci sono, oltre alle persone che sono rimaste asserragliate dentro la città, circa 6-7 mila profughi provenienti da altri paesi africani. Sono stranieri che non hanno alcuna protezione, non hanno alloggi, ci racconta Christian Cardot, e vivono a ridosso del porto, pronti a scappare dalla Libia. La Croce Rossa, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, ci racconta Cardot, sta cercando in ogni modo di proteggerli, di fornirgli almeno alloggi di emergenza. Questo dunque una storia dentro la storia, quindi ci sono queste 6-7 mila persone abbandonate a se stesse. Ora ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra breve con le altre notizie che hanno animato questa settimana. Punto e a capo. Bentornati a Punto a Capo da Cristina Carpinelli. Abbiamo parlato di giustizia, vi abbiamo raccontato quanto sta avvenendo in Libia, della guerra e di chi invece nella guerra ci si è trovato perché letteralmente passava di lì. È il caso dei 6-7 mila profughi provenienti da altri paesi africani che si trovano bloccati nella città di Misurata e soprattutto ci siamo occupati del tema immigrazione. Gli imprenditori italiani intanto, per voce di Emma Marcegaglia, chiedono maggiore attenzione. L'analisi e l'esortazione della Marcegaglia arrivano ad apertura della settimana e influenzeranno anche il dibattito all'interno del paese. Mai come in questi momenti gli imprenditori si sentono soli. In un paese che stenta sempre più a crescere, mentre l'Europa si divide sempre più sul rigore tra pochi paesi forti e molti a rischio. E di fronte a nuove ondate di sconvolgimenti internazionali che mutano dalle fondamenta paesi a noi vicini, come quelli del Nord Africa e del Medio Oriente. Gli imprenditori si sentono soli di fronte a tante difficoltà. Queste le parole dunque di Emma Marcegaglia, che fotografava la situazione degli imprenditori. Prima di affrontare proprio questo tema nello specifico, andando proprio a vedere delle storie locali, vi raccontiamo una storia di cronaca che ci porta alla sentenza sul processo per la strage di Castel Volturno, in cui il 18 settembre 2008 furono uccisi 6 cittadini africani e un italiano, 4 ergastoli e una condanna a 23 anni. La Corte ha riconosciuto la sussistenza delle aggravanti, tra cui l'odio razziale e la finalità terroristica. Francesco Nuzzo era sindaco all'epoca della strage quando parlò di una ferita difficile da sanare. Lo ha intervistato Maria Piera Ceci. Che la ferita possa considerarsi sanata in senso definitivo non credo che si possa dire. C'è un riscontro positivo che lo Stato ha reso giustizia, almeno in primo grado, non solo nei confronti dei familiari delle vittime, ma anche nei confronti della collettività, perché il giudice, nel momento in cui ha riconosciuto l'attacco terroristico razzista che ci fu in quell'epoca sostanzialmente ha confermato quello che io feci subito nelle mie dichiarazioni, perché posi in luce questo aspetto deviante della criminalità organizzata e della camorra in Castelvolturno. Quanto è cambiato Castelvolturno da quella strage? Purtroppo non è cambiato molto. Lo Stato ha cominciato a far vedere i suoi uomini, però è evidente che la camorra non si batte attraverso la semplice risposta repressiva. Il commento ora di Roberto Galullo del Sole 24 Ore. Gli arresti che sono avvenuti a Reggio Calabria sono importanti non soltanto per la valenza repressiva che hanno. Si inquadrano infatti in un contesto ben più ampio che segna una rinascita sociale e civile nella regione. I segnali sono tanti, non soltanto quelli dei giovani che continuano a manifestare la propria solidarietà agli amministratori e agli inquirenti, ma anche quelli che proverranno ad esempio domani con il cosiddetto Calabria Day, una giornata nella quale si incontreranno le imprese che fanno della trasparenza e della legalità la propria ragione di vita. Segnali sicuramente non isolati. Ricordiamo ad esempio che pochi giorni fa la Procura della Repubblica di Palmi ha arrestato 3 persone grazie alla collaborazione del sindaco e del vice sindaco di Scido, un comune di 998 abitanti in Aspromonte dove, pensate, sono ben 3 le cosche che hanno la propria influenza su tutti gli affari che lì si svolgono. Ebbene, queste 3 persone sono state arrestate per tentata estorsione nei confronti degli amministratori e gli stessi amministratori li hanno denunciati. Davvero un bel segnale, uno tra i tanti che proviene dalla Calabria. La Calabria onesta, però, quella delle imprese, sceglie di fare sentire la sua voce e lo fa proprio oggi con il Calabria Day. Ti racconto una bella storia. È una manifestazione evento contro l'Ndrangheta che si tiene oggi proprio dalle 16 fino a mezzanotte. Si sono dati appuntamento oltre 70 imprese, associazioni, amministrazioni, altrettante realtà positive che vivono senza scendere a compromessi o cedere alle logiche mafiose. Nuccio Caffo, presidente dei Giovani Confindustria Calabria. Beh, il significato del Calabria Day è quello di mettere in evidenza che c'è anche una Calabria positiva, oltre a quella che purtroppo vediamo spesso sui giornali. E noi, diciamo, come imprenditori, anche come imprenditori giovani, ma in generale un po' tutti gli imprenditori della Calabria, vogliono gridarlo, insomma, ad alta voce, far capire a tutti che, diciamo, c'è chi in Calabria lavora, porta avanti le proprie aziende onestamente. Ecco, anche al di là di occasioni come il Calabria Day, che aggregano realtà positive come la vostra una volta all'anno, avete la sensazione che qualcosa davvero stia cambiando in questi tempi in Calabria? Sì, no, in Calabria veramente c'è un'ondata nuova, insomma, sì, veramente l'imprenditoria calabrese si è svegliata, soprattutto tra i giovani c'è un bel fermento, voglia di fare impresa, voglia di, diciamo, di riscatto. I risultati, insomma, li stiamo vedendo anche dal fatto che le imprese stanno cominciando ad aggregarsi tra di loro, mentre in passato era anche difficile fare un semplice consorzio. Oggi invece stanno nascendo le prime reti di imprese in Calabria, so che ci sono diversi progetti al vaglio della regione che sta sostenendo appunto l'aggregazione tra le imprese per renderle più forti e quindi metterle in condizione di poter competere sul mercato che è sempre più globalizzato. Nella pagina politica c'è da segnalare il discorso del neo ministro ai beni culturali Giancarlo Galan, che espone al Senato le linee programmatiche del suo dicastero e spiega che quando si ha capacità i soldi si trovano. Accade mercoledì scorso. La cultura è la benzina che ha reso unico il nostro paese, il settore che più ci ha arricchiti e fatto crescere nei millenni. Investire in questo campo non è indispensabile, è fondamentale. Occorre dunque, prima di tutto, utilizzare fino in fondo le risorse a disposizione. Non servono più soldi, ma è necessario acquisire la necessaria capacità di spenderli. Quando si vuole fare una cosa e se ne ha la capacità, i soldi si trovano. Un esempio su tutti, Pompei. L'Italia però si muove su binari fragili, soprattutto quando si parla di detenzione. Storie orrende balzano alla cronaca, sovraffollamento e violenza popolano molte carceri italiane. Ogni tanto, da questo magma informe, emergono storie di cronaca strazianti, come quella di Carlo Saturno, un ragazzino di 22 anni, trovato morto impiccato nel carcere di Bari, avrebbe dovuto testimoniare per violenze subite quando aveva 16 anni in un carcere minorile a Lecce. Come ha raccontato in Italia in Controluce Patrizio Gonnella dell'associazione Antigone. La vicenda di Carlo Saturno è una vicenda complicata perché si legano due processi. C'è un processo a Lecce quando lui era minorenne. Fra l'altro è delicatissima la detenzione dei minorenni, perché in una fase in cui è la fase della crescita del ragazzo, è la fase in cui tu gli devi dare un profondo messaggio di legalità, mentre lì pare che ci fosse una squadraccia di persone, di poliziotti che usare sevizie nei confronti dei ragazzini. Tutto è certificato dentro la richiesta di rinvio a giudizio del PM e dall'accettazione del GIP del rinvio a giudizio, e quindi stiamo parlando di fatti che hanno già una loro documentazione. Carlo Saturno era una delle persone che era stata maltrattata lì e che ha avuto il coraggio di costituirsi parte civile. Punto e a capo. Molto atteso, e cambiamo decisamente argomento, il film di Nanni Moretti, che è stato presentato questa settimana alla stampa e ora è nelle sale. Your brothers and sisters, nunc vobis gaudium magnum, habemus papam. Habemus papam, sì, ma in versione Nanni Moretti, seduto su un autobus di linea, a teatro, in pizzeria, dall'analista, timido e insicuro, preda di attacchi di panico. Habemus papam è una commedia dolorosa introspettiva sul tormento del cardinal Melville diventato inaspettatamente pontefice. Michel Piccoli nel ruolo del pontefice, Nanni Moretti del suo psicanalista, nel cast anche Margherita Bui. Dobbiamo fare qualcosa subito, per questo abbiamo scelto lei. Perché lei è il più bravo. Che condanna! Di questa difficoltà ne ha parlato con qualcuno? No, con nessuno. Volevo raccontare questo personaggio così fragile, così spaesato, che si sente inadeguato all'interno però poi di una commedia. Penso che sia il sentimento che abbiano tutti i cardinali nel momento in cui vengono eletti papa. Il film, che si apre con le immagini vere del funerale di Papa Wojtyła, ironizza da una parte sulla psicanalisi, dall'altra sui rigidi rituali della Chiesa. Quanto alle possibili reazioni del Vaticano, il regista risponde così. Non penso a nessun tipo di pubblico quando giro un mio film. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Punto e a capo. Ho visto un grosso fumo, un po' di fiamme scintille dalla tromba delle scale e la gente che sul balcone che chiedeva aiuto, poi fumo deve essere entrato anche negli appartamenti. Ho visto che entrati i bambini dal terzo piano dove c'era più fumo, perché probabilmente la signora deve aver aperto la porta di casa, quindi è entrato tutto il fumo in casa. E poi ho visto il salvataggio di altri che erano rimasti bloccati perché le porte gonfiandosi col calore non si aprivano più, quelli di casa. Questa che avete sentito è la voce di uno dei testimoni che venerdì pomeriggio ha assistito a un incendio di vaste proporzioni che ha coinvolto due palazzine all'altezza di Viale Fulvio Testi a Milano. Il 118, poco dopo, riferirà di un morto e sei feriti gravi. Sempre a Milano e sempre ieri è comparsa negli spazi riservati alla propaganda elettorale un manifesto che dice via le BR dalle procure. Lo ha comunicato con una nota il procuratore della Repubblica di Milano, Edmondo Bruti Liberati. E restiamo a Milano, però cambiamo decisamente argomento, perché è stata presentata alla stampa l'edizione 2011 Mito Settembre Musica. Ci ha raccontato così Paolo Panceri. L'edizione di quest'anno, dal 3 al 22 settembre, si concentrerà anche sul 150esimo dell'Unità d'Italia, con oltre 200 eventi, come spiega il presidente Francesco Micheli. Abbiamo dato 13 commissioni ai più rilevanti compositori, ovviamente contemporanei, 6 italiani e 7 internazionali, sul tema appunto dell'Unità d'Italia. Faremo un grande recupero di musiche considerate disperse ai tempi delle 5 giornate di Milano, per cui ci sono anche grandi scoperte di manoscritti che si erano perduti in battaglia, così come verranno fatte delle trascrizioni di pezzi popolari. popolari dell'epoca, e poi ci sarà un grande evento che sarà il requiem per la morte di Carlo Alberto, del maestro Coccia del 49. Si chiude domani il Salone del Mobile di Milano, un'edizione questa particolarmente interessante. A parlare è stato Massimiliano Messina. In questo modo Messina è presidente di Fluma e anche figlio di Rosario Messina, che è scomparso lo scorso marzo ed è stato presidente di Cosmit per il Salone del Mobile dal 99 al 2008. Lo ha intervistato per noi Irene Privitera. Mai come quest'anno, avendo modo di parlare con rivenditori e giornalisti dall'estero, mi sono sentito dire: io vengo in Italia per il Salone del Mobile per respirare tendenze e energie che mi basteranno per il prossimo anno. Noi a volte come italiani tendiamo a sottovalutare quello che facciamo, ma in realtà per quanto riguarda il mobile, il mondo viene qua, viene a Milano, viene al Salone del Mobile per capire cosa succederà domani, per avere stimoli, energie e idee per migliorare poi la vita di tutti i giorni, utilizzando l'arredamento, ma non solo, utilizzando quello che sono le nostre tendenze e anche banalmente quello che è il nostro spirito. E dunque questa è una delle tante finestre che abbiamo aperto sul Salone del Mobile, un appuntamento milanese ma che è diventato di fatto internazionale, che ha ospitato tantissimi esponenti del mondo del design e che, come sempre, come ogni anno, anzi ogni anno cresce sempre di più l'attenzione ai temi del riciclo. Vengono utilizzati sempre di più proprio oggetti di riutilizzo e di riciclo per realizzare opere che poi vengono inserite anche nell'arredamento urbano e anche delle abitazioni, oggetti di riciclo, ma anche una grande attenzione che arriva dal Salone del Mobile al tema della sostenibilità ambientale. E anche abbiamo visto e l'abbiamo raccontato nel corso di tutti gli appuntamenti con il Salone del Mobile, attenzione alle energie, le energie rinnovabili. Di energie rinnovabili abbiamo parlato, ovviamente ne parliamo quasi tutti i giorni qui a Radio 24, ma in particolare vi volevamo segnalare quanto si è detto all'interno della puntata di Bianco e Nero che ha condotto Laura Bettini, perché si è aperto il microfono e gli ascoltatori hanno raccontato qual è la loro percezione quando si parla di energie rinnovabili. La pecca più grossa, ci hanno raccontato i nostri ascoltatori, è la cattiva comunicazione che si fa in merito alle energie rinnovabili ai cittadini. Lo hanno detto numerosi. E Laura Bettini ha girato in qualche modo questa segnalazione a Alessandro Beulke, presidente Aris sulle energie rinnovabili. Ritorno ad Alessandro Beulke, perché il problema della comunicazione che ha tirato fuori questo ascoltatore è un problema grave. Noi diciamo che è proprio il problema dei problemi, in qualche modo, al di là del fatto che è chiaro che bisogna valutare una serie di normative per quanto riguarda la bontà dell'impianto o meno. Però partiamo dall'assodato che un impianto sia ambientalmente compatibile e rispetti tutte le norme. Ecco, da quel momento in poi non è detto che quell'impianto possa vedere la propria realizzazione. Questo perché? Perché molto spesso, come diceva l'ascoltatore prima, da Ferrara se non sbaglio, si difetta nella comunicazione e nella trasparenza, e quindi i cittadini che provocano il NIMBY non fanno nulla di male in realtà, perché con questo non si fa nient'altro che sottolineare l'affezione e l'interesse rispetto al proprio territorio di residenza. Quello che vogliono i cittadini è vederci chiaro, e vederci chiaro mi sembra il minimo. Io stesso lo dico molte volte: se vedessi domani un cantiere che apre davanti a casa mia e non fossi mai stato convocato da un'assemblea, non avessi mai ricevuto una lettera a casa da parte del comune che mi informa sulle reali ricadute dell'impianto eccetera eccetera, beh, probabilmente mi comincerei a preoccupare. Se invece il proponente, che sia il comune che sia un'impresa privata, mi avverte, mi coinvolge e tenta di concertare con me, diciamo, un percorso di comunicazione e di informazione, beh, insomma, io mi rassereno e quindi potrei benissimo convivere con un impianto che sia sostenibile davanti a casa mia. Chiudiamo questa puntata di Punto a Capo con un'iniziativa che si svolgerà a Palazzo Ducale a Genova fino a domenica. Si tratta della seconda edizione di Storia in Piazza, tema di quest'anno l'invenzione della guerra. Storici, filosofi, antropologi, ma anche attori e registi parleranno di come la guerra ha influito e influisce ancora sulla storia collettiva. Sul perché è stato scelto questo tema lo spiega il curatore della rassegna Donald Sassone, ordinario di storia comparata al Queen Mary College di Londra, al microfono di Adriana Fracchia. Le guerre sono stati nodi, punti cruciali nella storia nostra, non solo naturalmente nella storia dell'Occidente, ma nella storia del mondo. Abbiamo deciso di chiamarlo l'invenzione della guerra perché le storie della guerra vengono continuamente interpretate e reinterpretate, sia le cause che le conseguenze, e anche dopo molti anni si torna a rivisitare queste guerre, e dunque la storia delle guerre, come tutta la storia, non è mai una cosa statica, fissa per sempre. Abbiamo cercato di fare tutto il possibile per allargare il dibattito non solo alla storia italiana o europea, invitando esperti da tutto il mondo. In particolare potrei ricordare che avremo tra noi Jonathan Spence, il più grande esperto di storia cinese in Occidente, e naturalmente abbiamo il fiore degli storici italiani. Punto a Capo termina qui, un ringraziamento veramente sentito a Roberto Scaltritti in regia, un saluto da Cristina Carfinelli, buona giornata a tutti.